572. Biscotti da famiglia. Sono biscotti di poca spesa, facili a farsi e non privi di qualche merito, perché possono servire sia per il tè sia per qualunque altro liquido, inzuppandosi a maraviglia. Farina grammi 250, burro grammi 50, zucchero a velo grammi 50, ammoniaca in polvere grammi 5, una presa di sale, odore di vaniglia con zucchero vanigliato, latte tiepido un decilitro circa. Fate una buca nel monte della farina, poneteci gli ingredienti suddetti meno il latte, del quale vi servirete per intridere questa pasta, che deve riuscir morbida e deve essere dimenata molto onde si affini. Poi tiratene una sfoglia grossa, uno scudo, spolverizzandola di farina se occorre, e per ultimo passateci sopra il mattarello rigato, oppure servitevi della grattugia o di una forchetta per farle qualche ornamento. Dopo tagliate i biscotti nella forma che più vi piace, se non volete farne delle strisce lunghe, poco più di un dito e larghe 2 centimetri come fo io. Collocateli senz'altro in una teglia di rame e cuoceteli al forno o al forno da campagna.